Spirito audace crede veder scritto lassù in le stelle che Orlando, eroe sagace, alla gloria non fia sempre robelle. Ecco sen vie. Su, miei consigli, all'opera!